Innanzitutto i numeri: sono 26.000 gli attualmente positivi, quasi 3.000 i guariti, 2.500 le vittime. Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto varato dal governo, mentre chi continua a lottare di più in queste ore è la Lombardia. I riflettori sono su Bergamo, che sta vivendo le ore più difficili, dove gli alpini hanno aperto un ospedale da campo, mentre il Sud torna a chiedere l'esercito. Il Viminale vara una stretta, controlli più rigidi e rischio fino a 12 anni di carcere per chi viola la quarantena. C'è anche del buono. Oggi parte il test su 300 pazienti per il farmaco antiartrite che ha dato finora buoni risultati. E l'Italia diventa testa di ponte per la sperimentazione dei farmaci, appunto. C'è altro? Sì. Negli Stati Uniti, che si stanno scoprendo altamente vulnerabili e già colpiti, si è votato per le primarie e con Florida e Illinois Joe Biden si assicura la nomination. Sarà lui a sfidare Trump. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. E lo so che è dura, care ascoltatrici, cari ascoltatori, care amiche, cari amici, lo so che è dura, però abbiamo scelto questa canzone come nostro inno per darci un filo di speranza, per darci un filo di coraggio in queste ore complicate, nelle quali tutti siamo un po' spaventati. Bob Marley a dirci: non preoccupatevi, tutte le cose andranno a posto, tutto andrà bene. E c'è chi critica questa impostazione dell'andrà tutto bene, ma è un modo di proiettarsi nel futuro, cercare di guardare oltre questo grande spartiacque delle nostre vite che è il Covid-19, il coronavirus e tutta l'eccezionalità che comporta anche nelle, appunto, nelle nostre esistenze. E dunque, tutte le mattine, vi piaccia o non vi piaccia, partiremo in questo modo, con Peter Bescapè in regia, Laura Vanossi in assistenza, insieme a Giorgio De Luca e ovviamente con voi, 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp e soprattutto le vostre voci, fatevi sentire. Con gli WhatsApp audio, fatemi sentire come state, che cosa state facendo, se state andando al lavoro, se siete in casa, vi preparate in questa mattinata, un'altra mattinata complessa, chiusi in casa, magari a fare smart working o magari in ferie, magari a gestire bambini, magari da soli. Ci siamo, siamo qua, anche per voi. E allora iniziamo con la cronaca dei numeri, le parole del ministro della salute Roberto Speranza su quando può essere il picco, via. Io penso che i numeri cresceranno ancora nei prossimi giorni, e crescono, io l'auspicio è che le misure che abbiamo messo in campo diano degli effetti e quindi i numeri cresceranno ma meno velocemente. Sinceramente prevedere quale sarà il giorno del picco io credo che in questo momento non sia possibile. Dobbiamo continuare a insistere col massimo del rigore sul lato istituzionale per le misure che mettiamo in campo e sul comportamento dei cittadini che sono chiamati a rispettare queste misure. Così Speranza, dunque ragioniamo su quando può essere questo picco. Come si diceva, la situazione più difficile ovviamente è quella della Lombardia, lo raccontiamo spesso e forse mi veniva da riflettere... Chi non vive come noi dentro questa regione, chi non ha contatti con questa regione, forse non si rende conto appieno della dimensione di tutto. Insomma, ormai molti di noi, la gran parte di noi, conosce anche solo per interposta persona qualcuno che si è ammalato del virus di Covid-19. E alcuni conoscono anche persone che hanno perso la vita per il virus. E dunque, in questo momento è centrale la Lombardia. Il governatore, il presidente Attilio Fontana dice: forse un qualche elemento di svolta lo potremo vedere da giovedì. Sentiamolo. Il cambiamento di rotta ci sarà quando inizieranno a dimostrare la loro efficacia le misure che sono state applicate. Io, secondo me, guardate che ve lo dico non da tecnico, ma secondo me dovrebbero iniziare a sentirsi dei cambiamenti da giovedì, ecco, lasciamo passare una settimana e un giorno, due giorni dal momento in cui c'è stato l'ultimo provvedimento, l'ultima stretta. Stretta che arriva ancora più dura, già ve lo dicevo in apertura, insomma il Viminale ha deciso di stringere sui controlli, mentre dalla stessa Lombardia hanno un po' aggregato i dati delle centrali telefoniche senza ovviamente andare sui singoli spostamenti delle persone, ma appunto prendendo dei dati aggregati, e da questi dati aggregati è emerso che il 40% delle persone ancora si sposta. Ecco, questo dato diffuso così ha poco senso, perché non è un dato qualitativo, non ti dice se la gente si muove per andare a fare la spesa, magari per andare al lavoro per alcuni servizi essenziali, non lo sappiamo esattamente, però il dato è questo. E l'assessore Gallera ieri ha detto, insomma, c'è ancora troppa gente in giro, troppa gente che che si muove, insomma, in sostanza. Ancora sul tema del picco, l'attenzione si sposta ovviamente anche sul mezzogiorno, il mezzogiorno nel quale c'è una grande attenzione, soprattutto perché le strutture sanitarie non sono le stesse che ci sono da queste parti, non sono le stesse che ci sono in Lombardia. E dunque il presidente della regione Sicilia, Musumeci. Il picco lo immaginiamo secondo le proiezioni degli scienziati e degli esperti. È un picco che si prevede complessivamente per tutto il mezzogiorno d'Italia. Il sistema sanitario, il nostro, non è assolutamente in difficoltà. È un sistema sanitario che ha risposto, devo dire anche con sorpresa per chi vi parla, in maniera davvero impegnata, razionale, come se fosse un vero e proprio gioco di squadra. Alessandro Vespignani è un fisico italiano, a Boston studia le curve di diffusione delle epidemie, è proprio la sua specializzazione. Così sul tema del picco. Io credo sempre che dare un giorno singolo sia estremamente pericoloso. Tutte queste previsioni, per essere diciamo rigorose, hanno un intervallo di confidenza, un'incertezza. Parlare di un giorno specifico non ha un senso e appende le speranze degli italiani a un obiettivo specifico, mentre invece possiamo parlare di settimane. Sicuramente quello che abbiamo visto in questi giorni è un rallentamento, e questo ci fa sperare che nei prossimi giorni, nella prossima settimana, si cominci a vedere una decrescita dell'epidemia. Così dunque Vespignani. Oh, un ascoltatore mi scrive e a lui va il nostro abbraccio, naturalmente, no? Dice: continuiamo a dire che stare a casa è dura, spendiamo anche qualche parola, e lo facciamo tutti i giorni a dire il vero, per chi invece in un contesto o in un altro continua o deve continuare ad andare a lavorare. Io sono un operatore sanitario e credetemi, vorrei tanto stare a casa. La capiamo perfettamente. Allora, ci sono ancora tanti altri elementi, qualche altra voce vi voglio far sentire, a partire, se vogliamo, anche sorridere, pur in una situazione complessa. Adesso vi faccio sentire anche il sindaco di Bari, De Caro, che insegue la gente per strada e gli dice: fermati, non ci puoi stare, non... sono il sindaco, cosa fai in giro, cosa fai a camminare, devi startene in casa. Comunque adesso ce lo sentiamo. Intanto voglio però salutare Salvatore Manca, che è presidente nazionale di Simeu, la società italiana della medicina di emergenza urgenza. Buongiorno Manca, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, con lei vorrei affrontare un argomento che dobbiamo fare con una certa delicatezza, per, se vogliamo, anche per non mettere un po' troppa paura alle persone, però insomma è un argomento che va affrontato. Ossia, quello che mi stavo chiedendo ieri è: ma nel momento nel quale io avessi un altro tipo di problema che non è il Covid-19, faccio un esempio a caso perché ce l'ho avuto, un infarto, che cosa succede in questo momento con le strutture sanitarie che sono e i numeri di emergenza che sono saturi o semisaturi, Manca? Beh, intanto si hanno due percorsi all'interno del pronto soccorso. C'è un percorso che si dedica esclusivamente ai pazienti con problematiche legate verosimilmente ai focolai di infezione di coronavirus, è un percorso che è il percorso tradizionale del pronto soccorso, che è poi quello che segue tutti i pazienti che afferiscono con tutte le altre patologie. Quindi da questo punto di vista i cittadini non devono avere nessuna paura, perché chiaramente verranno date delle risposte sanitarie adeguate anche alle problematiche non legate al coronavirus. Ah, ricordando ancora una volta agli ascoltatori, lo ripetiamo per l'ennesima perché è sempre importante dirlo, se avete sintomi di quel tipo che possono essere in qualche modo riconducibili a Covid-19 e quindi questi sintomi parainfluenzali o cose di questo genere, andatevi a cercare tutti i dettagli, non andate in pronto soccorso, perché è la cosa, manca la cosa peggiore che si può fare, no? Esattamente, esattamente, anche perché il pronto soccorso chiaramente non è che sono strutturati per avere comunque dei percorsi separati, abbiamo dovuto inventare adesso dei percorsi separati dal pre-triage chiaramente, quindi con due percorsi completamente differenziati, anche perché le sale d'attesa normalmente di quasi tutti i pronto soccorsi italiani sono delle sale d'attesa in comune, quindi è stato necessario proprio adeguare il percorso in questa maniera, per separare prima del triage, perché la sala d'attesa è prima del triage, quindi sì, chiaramente ci sarebbe una commistione di pazienti, sì, per cui è stato necessario proprio la separazione dei due percorsi. Chiaramente quando si hanno delle problematiche di tipo simile influenzale o che possono far sospettare un eventuale coronavirus, quindi provenienza da zone rosse, provenienza, aver avuto contatti con persone affette dalla patologia, chiaramente si deve seguire un percorso differente, non venire al pronto soccorso, ma chiamare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e chiaramente poi esporre le proprie problematiche. E quello che chiedo è che dal punto di vista anamnestico i pazienti dicano effettivamente se hanno avuto contatti con determinati tipi di persone oppure se provengono da determinate zone. Questo sì, è importantissimo. Fondamentale. Ascolti Manca, veniamo adesso alle note potenzialmente dolenti. Innanzitutto sì, il personale, in secondo luogo le dotazioni. Con queste dotazioni intendiamo ovviamente mascherine, occhiali e via dicendo. Ci dà sì, un'idea di come siete messi? Allora, c'è una difficoltà nel reperimento delle dotazioni di protezione individuale, questo va detto, perché chiaramente probabilmente non eravamo preparati inizialmente, o non pensavamo che che potesse avere uno sviluppo così ampio questa problematica, anche perché è un po' una mentalità italiana, no? Quella di sottovalutare determinate cose sino a quando poi non ci siamo all'interno, e per cui chiaramente ci siamo trovati un po' in difficoltà con le dotazioni e quindi tuttora comunque si hanno difficoltà, specialmente nei medici di medicina generale che non hanno le dotazioni, ma nemmeno all'interno dei presidi ospedalieri. E oltretutto c'è da dire che purtroppo stiamo lavorando, perlomeno all'interno del pronto soccorso, con delle dotazioni organiche già di base che erano abbastanza carenti. Se lei pensa che solo in Italia, nei pronto soccorsi italiani, c'è una carenza di circa 2.300 medici, quindi le immagini che chiaramente avere un afflusso così ampio di persone ha creato dei grossissimi problemi. Questo solo per quanto riguarda i medici, immagino che ci siano carenze anche dal punto di vista anche degli infermieri. Anche per il personale infermieristico, sì, senz'altro, ovviamente, uguale, certo, certamente. Certamente. Stessa situazione. A proposito delle dotazioni, ieri ha parlato al TG1 Arcuri, neocommissario insediato dal governo, è quello che si occupa in sostanza, dovrebbe occuparsi esattamente di questo, di trovare le forniture per gli ospedali. Dunque, sentiamolo. Il Presidente del Consiglio Conte mi ha chiamato e mi ha detto che dovevo correre e da allora non ho mai smesso di correre. Bisogna pensare a quante mascherine servono agli italiani, bisogna dotare il numero maggiore di ospedali, di ventilatori e di strumenti di terapia intensiva, bisogna inondare l'Italia di tutto quello che serve per far fronte a questa drammatica emergenza. E vediamo un attimo se riusciamo a pescare Peter Bescapè dal bollettino della Protezione Civile di ieri. Il capo della Protezione Civile Borrelli, il quale parla proprio di questo, di ventilatori, mascherine e occhiali. Vediamo, via. Per quanto riguarda la distribuzione dei materiali di DPI e dei materiali vari consegnati dal Dipartimento della Protezione Civile, registriamo ad oggi la consegna di 366 ventilatori complessivamente in tutte le regioni, la consegna di oltre 1.400.000 mascherine chirurgiche, la consegna di 50.000 occhiali protettivi, la consegna di oltre 2.350.000 guanti monouso. Dunque, che altre voci voglio farvi sentire? Vorrei farvi sentire innanzitutto, la dimensione della situazione a Bergamo forse non tutti ce l'hanno perfettamente presente. E allora sentire questa voce del sindaco Giorgio Gori sui morti vi può, secondo me, dare la misura di quello che succede. Sentiamo. Al conto ufficiale dei decessi, che in questo momento è arrivato credo sopra la 400 per la provincia di Bergamo, probabilmente vanno aggiunti molte altre persone. Ho notizie dai colleghi, dai sindaci e anche da conoscenti, insomma, di tante persone che in queste settimane e soprattutto negli ultimi giorni sono morte a casa o nelle residenze socioassistenziali, nelle RSA. Capito? Questa è la situazione per quanto riguarda Bergamo. Oh, poi c'è tutta la questione del non uscite di casa, del rimanete in casa. E ci sono tutti i sindaci che un po' su questo fronte si stanno muovendo, stanno continuando a dire: ragazzi, rimanete in casa il più possibile. Lo fa per esempio Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli. Poi i controlli sono tanti, state però a casa, basta uscire se non ci sono ragioni di necessità o di lavoro. I controlli delle forze di polizia sono tante, li voglio ringraziare, in particolare la nostra polizia municipale che sta facendo un grande lavoro. Oggi qui tra poco un'ulteriore delibera per mettere in campo ancora altre misure a sostegno dei nostri concittadini. Così De Magistris. E poi, sempre da una città del sud, da Bari, prima di andare al traffico, caro Peter, sentiamoci questo Antonio De Caro, il sindaco di Bari, così in qualche modo sorridiamo anche un po'. Ve lo ricordate De Caro? De Caro, tra le altre cose che fece in passato, ci fu andare a scavare nei bidoni dell'immondizia per pescare i ristoratori che avevano messo l'immondizia nel modo sbagliato, non l'avevano smaltita nel modo corretto, per poi portare lo scontrino e dire: guarda, sei tu, bisogna dargli la multa. E adesso va in giro per strada, ferma la gente, gli dice: sono il sindaco, via. Sono il sindaco della città, te ne vai a casa adesso, hai capito? Sto andando a togliere anche adesso, te ne vai a casa, dai, a casa. A casa, dai. Non mi deve guardare così, deve rispettare, c'è un decreto. Siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, se ne devi andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa, devi andare a casa adesso, altrimenti viene la polizia e se la porta di peso a casa in questo momento. Andiamo. Ok, a casa, adesso a casa, dai. Andiamo, andiamo. Mica devo chiamare la polizia, le fidanzate devo chiamare, con la mazza non le devo dare, andatevene a casa, dai. A casa, non si può stare in mezzo alla strada, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. E vabbè, un po' di cinema naturalmente da De Caro, però insomma il segnale che dà è questo: traffico. Mattino. Ed eccoci. Qualche ascoltatore ci scrive: abito in Lombardia, vado a lavorare in provincia di Reggio Emilia, nel mio paese ieri i carabinieri hanno fatto dei verbali a dei pescatori nei canali. Sono indignato, senso civico zero. La gente va a pescare nei canali in questi giorni. Su. Questa è una di quelle cose alle quali si può rinunciare. Alla spesa no, forse a pescare nei canali francamente si può rinunciare. Ci scrive un ascoltatore: sapete che i notai devono tenere aperti gli studi in base a una legge del 1913. Forse sarà il caso di provvedere. Sì, voglio ogni mattina ricordo qualche categoria, perché questo devo fare. Il nostro ascoltatore, che è un operatore ecologico, che chiamati ad un lavoro straordinario, perché i servizi pubblici essenziali in questo caso proseguono, e quindi chi è in strada a pulire le nostre strade è là, e lo ringraziamo tanto quanto ringraziamo tutti gli altri, così come i camionisti, che in questo momento si stanno facendo tutta Italia portando, per fortuna loro con un po' meno traffico, portando il cibo nei supermercati, insomma. E tutti gli altri, davvero, davvero. A partire dai... anche i volontari, abbiamo parlato del personale sanitario, quello regolarmente inquadrato per così dire, poi ci sono i volontari come quelli del Garda, e ci spostiamo in provincia di Brescia, dove abbiamo visto in questi giorni una crescita piuttosto forte dei contagiati, quasi con l'impressione quasi che questo virus si stia spostando verso est. Bergamo, che è ancora in crisi, e poi Brescia. Luca Cavallera è vicepresidente responsabile sanitario del gruppo volontari del Garda. Buongiorno Cavallera, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ci dà un'idea della situazione da voi? La situazione da noi, come noi siamo più sulla periferia di Brescia, ma operiamo con più mezzi sanitari, siamo un gruppo, una delle realtà più grosse che ci sono, e abbiamo più ambulanze, e adesso copriamo tutta la zona del lago, tutta la zona di Brescia, e abbiamo un'ambulanza su un porto a Bergamo. La situazione è drammatica, non si sa dove portare i pazienti, gli ospedali stanno facendo di tutto per poter sopperire a questa epidemia, ma oltre un certo numero credo sia impossibile riuscire a risolvere la cosa. Abbiamo attese di ore fuori dagli ospedali, i ragazzi sono tutti spaventati, perché è normale che sia così, quando suona la campana o insomma quando arriva la chiamata da noi, gli sguardi dei ragazzi sono sempre terrorizzati, non si può non aver paura di una cosa che non si vede, anche perché non è vero che muoiono solo persone anziane, abbiamo visto questo virus colpire tutte le età, abbiamo visto morire persone di più età, quando siamo ore fuori dagli ospedali per poter scaricare il paziente, vengono fuori ad aiutarci gli infermieri, i medici ci portano l'ossigeno, perché è chiaro che un'ambulanza dopo 5-6 ore che aspetta fuori da un pronto soccorso con 10-11 ambulanze diventa tutto un problema. Questo è un problema che si è creato e nessuno si rende conto, la gente va ancora in giro, la gente, c'è ancora purtroppo chi pensa che è solo un'influenza, c'è gente che scambia questo tempo libero proprio per andare in giro, e siamo preoccupati perché i numeri salgono, le uscite si sono trasformate solo ed esclusivamente sul Covid-19, e questo qua è preoccupante. Non riusciamo a gestire il tutto, mascherine c'è quello che c'è, tutte c'è quello che c'è, si riesce, perché comunque magari si ha la ditta vicino, cioè quello che è rimasto si riesce a racimolare, però è rischioso, i ragazzi si rischia che si prendono anche loro la loro febbre, per fortuna abbiamo avuto dei casi, ma con una febbre leggera di 2 giorni, quindi ci è andata anche bene, però la situazione è drammatica, la gente non si rende conto di cosa sta succedendo, lasciamo a casa la gente perché non si sa dove portarli, a meno che la situazione non sia una situazione drammatica, che proprio c'è bisogno di una estrema necessità di ospedalizzare, si lasciano a casa. Sì, questa è la cronaca che riceviamo, Cavallera, anche da bene. Nel frattempo, mi scusi, non ho salutato e ringraziato Salvatore Manca, presidente nazionale di Simeo, la società italiana della medicina di emergenza e urgenza, grazie per essere stato con noi, Manca, ci riserviamo di chiamarla magari qualche altra volta, se avesse voglia e fosse disponibile. Cavallera, insomma, dicevo che è una situazione, immagino che voi abbiate contatti anche, no, con la confinante Bergamo. Sì, noi abbiamo proprio un'ambulanza in supporto a Bergamo. E immagino che la situazione che si sta verificando da voi è quella che Bergamo vive ormai da 2-3 giorni, no? Sì, siamo in ritardo di qualche giorno rispetto a loro, però anche noi abbiamo lo stesso problema adesso. Brescia è al limite e la cosa sta solo peggiorando, non sta di certo migliorando. Non sta migliorando. E a livello di uomini, per così dire, come siete messi? Posto che sono volontari, ovviamente. Uomini ne abbiamo. Abbiamo delle difficoltà, non so se avete visto anche dei comunicati stampa, perché per assurdo le persone devono continuare ad andare a lavorare. E giustamente, capibilissimo, i datori di lavoro hanno dei soggetti a rischio e chiedono ai dipendenti di andare in ambulanza o di andare a lavorare. È assurdo che un datore di lavoro abbia una persona che va a contatto con una serie di persone infette e poi si presenti in azienda, è capibilissimo. Bisognerebbe almeno che le persone possano essere precettate, che qualcuno si prenda la briga di metterle in ambulanza, perché in una situazione così, in una, credo si possa dire, una maxi emergenza del genere, visto che è stata dichiarata pandemia, le persone adesso dovrebbero andare tutti in ambulanza, dovremmo avere delle forze in mani che si muovono tutti i giorni sul territorio. C'è stata chiesta una quinta partenza, però la gente deve andare a lavorare, quindi non è facile. Certamente, certamente. E dal punto di vista delle dotazioni, come siete messi, Cavallera? Altro tema. Dotazioni, abbiamo la fortuna di essere un gruppo molto grosso e abbiamo ancora qualcosa. Però, ripeto, le uscite sono solo ed esclusivamente Covid-19 e quindi va un'attrezzatura giornaliera disarmante. Perché poi c'è oltre a tutto quello che si sa, cioè la classica mascherina, l'occhiale, la tuta, copri i calzari, c'è anche il discorso delle sanificazioni. Abbiamo la fortuna di avere più mezzi e quindi quando l'ambulanza rientra viene fermata, viene attivata un backup e l'ambulanza viene sanificata. Anche tutto questo ha un costo. Ovviamente abbiamo sospeso tutti i viaggi programmati, tutte le manifestazioni, è stato fermato tutto, quindi non c'è più nessun tipo di introito. Ovviamente mutui e tutto va pagato, bollette vanno pagate. Qua non c'è più nessun tipo di introito, però le spese continuano ad aumentare. I sanificanti sono alle stelle. Purtroppo, come avete visto da tutte le parti, tutte le attrezzature che si trovano sono salite in una maniera incredibile. Certo. Allora, io la ringrazio, Luca Cavallera, per essere stato con noi, che è vicepresidente responsabile sanitario del gruppo volontari del Garda, per la sua testimonianza che mi pare importante e che ci consente di accendere un riflettore appunto anche su Brescia. Andando a chiudere, ci sono un altro paio di cose. Beh, abbiamo sentito prima De Caro, qualcuno si lamenta, dice non c'è bisogno di sorridere delle iniziative del sindaco De Caro, però insomma la scena, no, è curiosa, di un sindaco di una città grande come Bari che va in giro e controlla. E poi c'è un altro sindaco la cui voce sta facendo un po' il giro anche della rete, è il sindaco di Delia, siamo in Sicilia, sta diventando un cult, perché dice di fatto quello che dice De Caro, di fatto quello che dice la Protezione Civile, dice di fatto insomma quello che stiamo dicendo noi, restate il più possibile a casa, ma lo fa in questo modo. Moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene, moltissimi lo scrivono su Facebook, nei messaggi, ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa, quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette, al posto di prendersi, dato che hanno il vizio del fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie, se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Ma vogliamo fare le persone serie? Mi chiamano sindaco, io devo andare a Canicattì a fare la spesa. A Canicattì non ci puoi andare a fare la spesa. La spesa la fai a Delia, salvo che ti serve qualcosa di importante che a Delia non hanno. Un farmaco salvavita, un alimento per un intolleranza. Dove vai? Dunque, state a casa il più possibile. State a casa il più possibile, come ci dice Bob Marley. About a thing. GR e poi ci ritroviamo con la rassegna stampa.